tua che stuccia radio, senti si e si sciurrarange, lo profumo a così fino, tinto cuore fedela, e tu dici o pare d'affio, parlatane la spasa Nicola. casa tutte se rinnovata. E mi saluta alle trema voce. Notte che pace dà, notte che fa. For you.

e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene è una catena ormai che scioglie il sangue di took all the blows and did it my way. mare luccica, l'astro d'argento, placida è l'onda, prospero il vento. Sul mare luccica, l'astro d'argento, placida è l'onda, prospero il vento. Venite all'agile, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Venite all'agile, barchetta mia, Santa Lucia.